Rassegna Stampa Europa. Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa europea di Radio 24. Ci stiamo avvicinando molto velocemente alle elezioni, che saranno il 25 maggio, le elezioni europee, e quindi proprio prendendo un po' lo spunto da questa data che si avvicina e che tra l'altro tra un po' dovremo fare a meno dei sondaggi, anzi in teoria proprio da ieri, e quindi dobbiamo insomma cercare magari di farci un'idea anche senza sondaggi, e forse anche meglio. Ecco allora che per esempio il presidente francese François Hollande, che ha i suoi problemi di popolarità in Francia, ha proprio scritto una lettera aperta, che quindi una sorta di articolo di suo pugno, che è stato poi pubblicato da Le Monde, proprio avvertendo i suoi connazionali sull'importanza di queste elezioni. Scrive Hollande, mette in guardia appunto i francesi della tentazione di uscire dall'Europa, che sarebbe, come sottolinea poi dettagliando questa presa di posizione, sarebbe come uscire dalla storia. Alcuni, scrive Hollande su Le Monde, che è uno dei quotidiani più diffusi di Francia, celebrando l'8 maggio, che per la Francia significa la fine della Seconda Guerra Mondiale, vogliono abbandonare l'euro, ma la deriva della moneta ci renderà competitivi senza sforzo, dicono, lo abbiamo sentito dire, aggiungo io, tanto anche in Italia. La svalutazione è innanzitutto l'aumento del prezzo di tutti i prezzi di tutti i prodotti di importazione. La fine dell'euro è un'austerità implacabile. Insomma, Hollande cerca veramente di convincere tutti questi euroscettici. Secondo i sondaggi, tra l'altro, il Front National, che è il partito di estrema destra di Marine Le Pen, che alle ultime elezioni amministrative, che sono comunque un test, ha avuto tantissimi voti e ha tra l'altro causato un rimpasto del governo Hollande, questo partito, che è euroscettico e favorevole all'uscita dell'euro, potrebbe diventare la prima forza politica in Francia alle europee, uniche elezioni su scala nazionale in cui si vota con un sistema proporzionale netto, perché sapete che invece il sistema con cui si vota alle politiche e alle amministrative in Francia è molto diverso. Passiamo a un argomento di cui si è parlato facendo confronti tra noi e gli altri paesi europei. Come forse immaginerete, è quello che è successo allo Stadio Olimpico settimana scorsa, e che poi di cui è stato poi oggetto di tantissime discussioni e commenti, purtroppo appunto anche sulla stampa internazionale, perché è stato uno spettacolo che non si poteva certo tenere nascosto, soprattutto nell'era di internet, appunto all'estero, e tenerlo relegato come qualcosa di cui sicuramente dobbiamo vergognarci ai nostri mezzi di comunicazione. Ecco allora che la FAZ, per esempio, la Frankfurt Allgemeine Zeitung, il più autorevole, anche severo se vogliamo, quotidiano tedesco, ha scritto: mentre continua il declino del calcio italiano, e qui c'è appunto anche un confronto europeo, appena superato anche dal Portogallo nel ranking della UEFA, che è l'associazione appunto del calcio europeo, gli incidenti che hanno preceduto la finale di Coppa Italia a Roma hanno fornito un'altra dimostrazione della sua impotenza di fronte agli ultras. Il presidente della FIGC Giancarlo Abete ha dichiarato che il calcio è la vittima, ma, scrive la FAZ, visto il numero dei precedenti, bisogna chiedersi se non sia anche complice. È il Paes, invece, si è focalizzato, ha anche raccontato un po' la scena, e ha scritto: i disordini, il ferimento di 3 tifosi a colpi di pistola e, cito testualmente, lo spettacolo vergognoso del capitano del Napoli, Marek Hamšík, che chiede il permesso di giocare la partita con la Fiorentina al capo degli ultras, hanno dimostrato ancora una volta la debolezza dello Stato di diritto di fronte alle mafie presenti anche nel calcio in Italia. E infine il Guardian, perché sapete che spesso si cita la Gran Bretagna come un esempio da seguire nel contenimento, nella sconfitta delle frange più violente del tifo, i famosi hooligans, che sono praticamente spariti dagli stadi inglesi, dove invece sono tornate le famiglie, di cui spessissimo si parla anche in Italia. Il britannico Guardian appunto ha sottolineato come i funzionari e la polizia siano stati accusati di aver ceduto a quelli che lui traduce appunto, lui, il Guardian traduce appunto come hooligan, perché ultras non sarebbe abbastanza significativo per i lettori britannici. E poi la rabbia che ha scatenato appunto il fatto che il leader di alcuni di questi hooligans sia stato consultato sull'opportunità o meno di disputare la partita, che è una cosa che forse è una delle tante cose strane a cui noi ci siamo abituati qui in Italia, ma che poi viste dall'estero sembra appunto assurda. Le Monde, infine, perché ripeto, nessuno, quello che è successo a Roma non è passato inosservato. Le Monde ha titolato L'Italia si indigna per il ritorno della violenza nel football, e questo è forse il titolo più lusinghiero, perché appunto ha dato ampio conto delle reazioni che sicuramente ci sono state. Il New York Times ha definito quello di Roma un momento umiliante per il calcio italiano, anche perché insomma tutti hanno visto che allo stadio c'era anche il nostro premier, il nostro primo ministro. E forse qualcuno ha anche notato che è stato fischiato l'inno nazionale, altra cosa che veramente all'estero sembra sempre assurda. Cerchiamo di bilanciare un pochino, visto che sicuramente appunto questa vicenda della Coppa Italia ha dato un brutto colpo all'immagine del nostro paese. Citiamo El País, ma per un'altra ragione. Ci si avvicina alla bella stagione, si fanno i confronti tra tutte le rassegne culturali che ci sono in Europa. È il momento in cui forse l'estate in cui appunto si può fare un po' di non solo turismo, ma proprio turismo culturale. Ci sono tantissimi festival, come sapete, soprattutto all'estero, e la stampa e il Paese appunto parla in questo caso di Torino come una nuova capitale dell'arte contemporanea, invita tutti a visitarla. E scrive al Paese: in generale una persona va in Italia per vedere l'arte classica, le pietre antiche, ma a Torino molti siti ci ricordano che anche durante il secolo scorso gli italiani hanno proseguito con la propria eccellente tradizione artistica. L'archeologia industriale del XX secolo, riciclata per servire da contenitore dell'arte contemporanea, dà forma a un paesaggio con memoria, potrebbe addirittura essere, trovo una bella definizione, il Colosseo del futuro. E in questo caso naturalmente l'esempio più significativo è quello del Lingotto, che una volta ospitava le fabbriche della Fiat, che adesso si è completamente riciclato. Sapete, in cima si fanno bellissime mostre, sempre appunto di arte contemporanea. E passiamo a un altro argomento che abbiamo seguito da vicino, e perché non, naturalmente anche in questo caso la questione è molto complessa e non si vede una vera soluzione, che è quello dell'Ucraina. Secondo il New York Times, è la Slovacchia, in questo caso quindi un altro tassello importante del puzzle europeo, il nodo della possibile liberazione dell'Ucraina dalla Russia per le importazioni di gas. Sapete, anche qui l'abbiamo detto tante volte, c'è una componente politica in questa questione, c'è una componente nazionalistica, c'è il desiderio di Putin di riaffermarsi internamente e esternamente, ma poi c'è una questione molto pratica, che è quella appunto dell'approvvigionamento energetico. Infatti, scrive New York Times, è questo il paese, cioè la Slovacchia, che ospita i gasdotti con la capacità necessaria per invertire un flusso consistente di gas dall'Europa all'Ucraina, ma che a sua volta dipende dal gas di Mosca. L'ostacolo al pieno sfruttamento delle capacità dei gasdotti della Slovacchia è la Gazprom, il colosso russo alla guida della quale Putin ha piazzato naturalmente uno dei suoi amici. E questa è, lo spiega al New York Times, Andriy Kovalev, che è il direttore di Naftogaz, un'azienda concorrente di Gazprom. Sulla questione dell'Ucraina, e in generale della presenza, di una maggior presenza dell'Unione Europea, che sapete però non ha un vero e proprio esercito, scrive Le Figaro, parlando invece di quelle che potrebbero essere le mosse della NATO, di cui naturalmente tutti i paesi dell'Unione Europea fanno parte. Quindi la NATO sta considerando l'ipotesi di pianificare una presenza militare permanente nei paesi alleati dell'Europa dell'Est. È una delle prime conseguenze, scrive Le Figaro, di quanto accaduto in Crimea, quella regione dell'Ucraina che è passata alla Russia con un referendum di cui ancora non possiamo essere certi delle modalità, però insomma è quanto lo ricorderete, l'abbiamo seguito moltissimo nella cronaca. Questi eventi hanno modificato quello che Le Figaro definisce il paradigma formalizzato negli anni 90, secondo cui la Russia, finita la guerra fredda, avrebbe potuto essere un partner futuro. Ecco, non è poi così semplice. Su Euronews, a proposito invece di un'altra questione di cronaca spaventosa degli ultimi giorni, che è quello del rapimento delle 276 studentesse in Nigeria da parte di questi miliziani di Boko Haram, che dichiarano di farlo per ragioni religiose, come se la religione potesse mai giustificare violenze di questo genere. In ogni caso, l'Unione Europea, racconta Euronews, si sarebbe messa in contatto con le autorità della Nigeria per per cercare di, se non altro, capire esattamente cosa sta succedendo e naturalmente dire quanto la nostra posizione, nostra nel senso di Unione Europea, nostra posizione per la liberazione. Lunedì, tra due giorni, ci sarà un Consiglio degli Affari Esteri in cui ci sono moltissime questioni all'ordine del giorno, l'Ucraina è tra queste, ma ci sarebbe, secondo Euronews, anche quella della Nigeria. Per l'ultima segnalazione che sono riuscita a farvi, vi do appuntamento a sabato prossimo, un caro saluto da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.